timpano, mai rotti il timpano. Di te non so che fanno, no, di te non so che fanno, no, di te non so che fanno. Caro me lo ti timpano, di te non so che fa, non non non non non so che fa, di te non so, non so che fa, di te non so, non so che fa, io non mi trovo in via, ma che mi voglio far via, e mi chiamo come sta un tipo, e se io mi fa preciso, io volo mi dura, voglio amore sotto la tempo, e le donne calpestando, arresta, tu sai che sazio sono di questa moglie, che non ne posso più. Scacciarla è male, tenerla è peggio. Ho quindi stabilito che la tiri in volo per suo marito. Ma come? Ehi, non è turco. Che importa a me? Ma di Maometto la legge non permette un tal pasticcio. Altra legge io non ho che il mio capriccio. Mi intendi? Signor sì. Sentimi ancora. Per passar bene un'ora io non ritrovo una tra le mie schiave che mi possa piacer. Tante carezze, tante smorfie non son di gusto mio. E che c'ho da fare io? Mi dovresti trovar un'italiana o una gran moglie, già per una di quelle signorine che dà martello a tanti cicisbei. Io servirvi vorrei, ma i miei corsari e l'incostanza del mar. Se fra sei giorni non me la trovi e sedi a far lo scaletro, io ti faccio impalare. Non occorre altro. Thank you.

Oh,

Per me stesso, per me soltanto non so comprendere la gesta. Odio che fulmine, non so rispondere. Amore aiuta di te. Non posso stupidi, incerti per me. Non so comprendere la gesta. Odio che fulmine, non so rispondere. Incerti vedono, non so comprendere l'angelista. Odio che fulmine, non so rispondere. Amore aiutami nel carisma. Confusi e stupidi, incerti vedono, non so comprendere l'angelista. Odio che fulmine, non so rispondere. Go! il me stesso Dio su questo lino trovo l'indoro e lo ritrovo in fido. Ordine no, la nota resta adorata in sua bella. In che peccai che mi fuggi così? Lo chiedi ancora, tu che sposa del vino? Io? E di condurla, non di sposarla, ho detto, e sol mi imbussi per desio d'abbracciarti. E creder posso? Mi incenerisca un fulmine, se mai pensai tradir la nostra fede. Al cuore, che caro l'amor mio, la notte breve. Che far del giro? Fuggir, dobbiamo insieme. Quelli stesso va a scel qualche ragione.